ogni serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa, ciminiere no. Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12.06 in questo momento di lunedì 7 aprile. Cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Ricordiamo, tra l'altro, prima di cominciare veramente con i collegamenti, il conto corrente postale al quale si può sottoscrivere, che è conto corrente postale 618-04-001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsce 56-00185 Roma. Allora, abbiamo subito il primo collegamento con Fabio, lavoratore delle poste. In questo momento è in corso un sit-in e tra l'altro anche uno sciopero contro le privatizzazioni delle poste italiane, e gli chiediamo appunto di cominciare proprio da quello che stanno facendo in questo momento. Ci senti, Fabio? Sì, eccomi. Ok. Allora, se ci puoi spiegare appunto cosa state facendo in questo momento, dove siete in particolar modo. Allora, noi abbiamo fatto questa mattina un presidio iniziato sotto le poste di Roma Prati in via Mazzini. Abbiamo fatto un volantinaggio agli utenti di poste, ai lavoratori, e abbiamo fatto insomma un megafonaggio rispetto a quelle che sono le motivazioni di questa giornata di sciopero. Ci siamo spostati adesso sotto la sede della RAI in senso di Viale Mazzini, perché anche qui abbiamo delle cose da dire, oltre a continuare a dire ciò che è inerente al nostro percorso di privatizzazione, purtroppo, che sta subendo un'accelerazione con questi ultimi governi. Ma siamo venuti anche qui a dire ai mezzi di informazione e alla RAI che i responsabili di ciò che accade in tutti i servizi pubblici che vengono attaccati quotidianamente sono anche loro, i mezzi di informazione, che sicuramente non danno voce e non danno spazio a quelle che sono le realtà vere che vivono i problemi tutti i giorni nel quotidiano. E quindi ecco, siamo qui in un presidio molto colorato, e ci sono insomma un po' di lavoratori che hanno risposto a questo nostro appello, perché il momento è molto delicato, è molto grave, è molto importante per noi, e stiamo appunto portando avanti questo sistema. Adesso ci vedremo anche un incontro con qualche rappresentante della RAI per vedere un attimo qual è veramente il livello di indifferenza che possono raggiungere, o se magari c'è la possibilità rispetto a una cosa così nuova di riuscire a venire a portare qualche cosa di più insomma a casa. Per quello che riguarda i motivi del nostro sciopero e di questa giornata nazionale per il servizio pubblico postale, chiaramente ce ne sono a bizzeffe. Ne sappiamo tutti quanti quelle che sono le storie delle privatizzazioni, perché chiaramente in Italia non siamo nuovi a questo, negli anni 90 in poi si è cominciato. Tutte le privatizzazioni non hanno portato benefici per nessuno, tranne che per i soliti poteri forti, che sono quelli che fanno soldi sulle nostre spalle di lavoratori e di utenti. Per quello che riguarda le poste non siamo in una condizione diversa, anzi, per quello che riguarda le poste siamo in una situazione forse peggiore, perché stiamo andando completamente al buio. Quelle che sono le dichiarazioni dei nostri ministri, viceministri, sono semplicemente allucinanti. Praticamente si chiede solamente di approvare il decreto del Presidente del Consiglio sulla cessione del 40% dell'azienda, e in merito a quelli che sono i piani aziendali, l'assetto futuro dell'azienda, la tenuta occupazionale, il servizio che verrà garantito, viene esplicitamente dichiarato dal vice ministro Morando, quindi non l'ultimo, l'ultima voce in capitolo in questa storia, viene dichiarato candidamente: non so assolutamente nulla di questo, non sappiamo assolutamente nulla, voi intanto fateci vendere, poi dopo vedremo come andremo a gestire la cosa. Quindi capisci che sono delle cose molto molto gravi e pesanti. Siamo trattati noi e gli utenti di poste come delle nullità assolutamente, che non meritano di sapere neanche quale può essere il loro destino e il loro futuro. E per questo motivo chiaramente noi siamo qui. Ci sono tantissime altre cose che sono da dire, no? Perché come si è arrivati a questa privatizzazione è anche importante, e perché magari non c'è da parte della cittadinanza una levata di scudi o comunque un'indignazione adeguata. Semplicemente perché Poste Italiane, che dal 98, ricordo, perché in molti purtroppo non sanno ancora, è una società per azioni, quindi ha un aspetto societario privato, si sta comportando dal 98 ad oggi appunto sempre come un'azienda privata che privilegia il profitto a scapito di quello che è le condizioni di lavoro e di quello che è il servizio erogato, sia nel recapito sia nel banco posta, no? Allora, da questo atteggiamento e dagli accordi che i sindacati maggioritari, no, quelli della concertazione, firmano tutti i giorni, no, soltanto interessati a mantenersi un po' di privilegio, escono fuori condizioni di lavoro che ci impediscono di dare un servizio adeguato, un servizio degno di questo nome. Allora, negli uffici postali i carichi di lavoro aumentano a dismisura, si privilegia il budget di quelli che sono i servizi finanziari, si privilegiano delle cose che non hanno più nulla a che vedere con quella che era la vocazione originaria di Poste, no? I servizi postali, i prezzi, i conti correnti, i buoni postali, le pensioni. le recapito a fare lo stesso, in modo ancora più drammatico e evidente, perché dal 2006 a oggi sono stati tagliati 15.000 posti di lavoro senza reintegrarne nessuno. Questo significa che sicuramente il carico di lavoro è aumentato, questo significa che non esistono le sostituzioni per i portalettere, che qualsiasi, per qualsiasi motivo vengono a essere assenti, per maternità, per infortunio, per malattia, per sede, non vengono sostituiti. Allora si crea in ufficio una situazione ingestibile nella quale chiaramente il servizio ne risente, il servizio assolutamente non è quello che la gente meriterebbe, e da qui viene l'idea che le poste sono il solito carrozzone, che i lavoratori postali, come tutti i lavoratori pubblici tra virgolette, perché non lo siamo, sono i soliti fannulloni, e quindi a buon gioco poi il politico di turno, il governo di turno, in questo caso insomma no, siamo in accelerata con Monti, con Letta e adesso con il Presidente del Consiglio eletto, viene in gioco facile proporre la soluzione a tutti i problemi. Qual è la soluzione? Te la do io, la privatizzazione. Si fa credere alla gente che il privato sia efficiente, che sia bello, che risolva tutti i problemi. Però appunto, e qui torna ancora il discorso della consapevolezza dei mezzi di informazione, non viene detto che nessuna privatizzazione che è stata fatta fino adesso è una privatizzazione che ha portato vantaggi o miglioramenti nelle condizioni del servizio oppure nelle condizioni di lavoro. E quindi noi anche questo stiamo denunciando, e speriamo che i cittadini siano con noi all'interno di questa battaglia, che è una battaglia che riguarda tutti quanti, riguarda noi come lavoratori, loro come utenti, ma noi anche come utenti, perché ognuno di noi a sua volta è utente di poste. E vogliamo allargare il discorso a tutti quelli che sono i soggetti interessati alle privatizzazioni. Ci sono le dichiarazioni che vengono fatte, recentemente sono state fatte da Padoan, sono state fatte anche appunto sempre da Morando, che siamo alla vigilia di un percorso, di un processo di privatizzazione e valorizzazione, la chiamano loro, no? La definizione dei servizi, che non ha precedenti, che comunque sarà continuo e lungo e intenso. E quindi si parla appunto di altre aziende che vogliono privatizzare, di quale si vuole cedere il controllo. Sempre comunque nel discorso generale di quello che è lo scenario delle privatizzazioni fino adesso. Ecco, le notizie Fabio, recentissime, abbiamo visto tutti la Telecom che si è fatto, ma abbiamo visto anche le poste inglesi, dopo 3 mesi dalla collocazione in borsa delle azioni, 1600 esuberi e dichiarazioni che dicono il profitto è tutto, non ci interessa del servizio sostanzialmente. Quindi rispetto a queste cose noi siamo in piazza oggi, cerchiamo appunto di mettere un punto di partenza per questa battaglia che sarà sicuramente lunga e che richiederà la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, non solamente dei lavoratori e degli utenti, per quello che riguarda la tutela, la difesa e il mantenimento pubblico di poste. Fabio, scusami, allora senti, tu hai descritto in maniera assolutamente efficiente e sintetica tutta una serie di... Mi senti? Senti Fabio? Stavo dicendo che hai descritto in maniera assolutamente efficace e sintetica tutta una serie di problematiche che si ritrovano sia all'interno dei vostri posti di lavoro, quindi all'interno di Poste Italiane, sia all'interno di tutte quelle aziende pubbliche, municipalizzate, statali, partecipate, che hanno vissuto momenti di vertenza o che potrebbero viverli dal punto di vista appunto delle lotte contro la privatizzazione. Ora io ti vorrei fare 2 domande nello specifico, dato che hai parlato che dal 98 in poi, in quanto Poste già agisce, Poste Italiane, come soggetto privato, hai parlato di licenziamenti, se non sbaglio, se non ho capito male, 12.000 esuberi in tutti questi anni, sì, e che hanno chiaramente significato carichi di lavoro maggiori per invece tutti quelli che sono rimasti a lavorare. Ora, dato che c'era anche una situazione specifica per quello che dicevi dei portalettere, perché lì in quell'ambito sono state, diciamo, Poste si è inventata questa storia dei contratti di 3 mesi che poi scadono, non si sa se vengono rinnovati, ci sono state anche mobilitazioni da parte appunto dei portalettere. Ecco, se nello specifico puoi entrare sulle condizioni di lavoro sia all'interno degli sportelli di Poste Italiane sia poi all'esterno per quanto riguarda i portalettere, se si vivono al di là di questi problemi della privatizzazione, se quindi anche questo sciopero parla di questi problemi di condizioni di lavoro. Sì, allora, dei problemi sicuramente di lavoro che sono attuali adesso e sono la realtà quotidiana, ne parliamo. Per quello che riguarda il percorso, come tutti appunto stai visualizzando, è quello, dal 98 società per azioni, e da lì è iniziato il taglio di posti, non sono stati licenziamenti, questo è stato chiaramente un muoversi molto intelligente da parte loro, no? Non c'è stata sofferenza e gente per stare in strada, semplicemente non si è attuato il turnover. Nessuno che è andato in pensione, che si è uscito dall'azienda per qualsiasi motivo, è stato reintegrato, e questo 100.000 posti di lavoro dal 98 oggi sono andati persi, e sostanzialmente quindi è successo che il carico di lavoro, che è rimasto invariato è andato a Palmati e si è rimasto all'interno dell'azienda. Per quello che riguarda le cose che riguardano proprio il recapito specificamente, è lo stesso discorso, solamente che anche qui invece che aumentare i servizi a parità di personale come avviene nel Banco Posta, il personale diminuisce, e quindi quelli sono stati sempre i tagli che sono stati fatti, questo dal 2006, 15.000 posti, senza licenziare nessuno al momento, anche se l'ultimo accordo di 15.000 posti che sono stati appunto tagliati a febbraio 2013 ancora non sono stati tutti ricollocati, 6.000 colleghi, però diciamo che sostanzialmente si attua sempre questa cosa, non si è sostituito chi è andato in pensione, si è attuato l'incentivo alla pensione, no? Quindi questi pensionamenti che poi danno origine agli esodati eccetera eccetera. Poi ovviamente succede che Poste Italiane si trova in situazioni nelle quali ovviamente anche il facciato, no, datore di lavoro deve comunque mettere un minimo di freno, e ci sono queste assunzioni da parte dell'azienda di lavoratori a un mese, a due mesi, a tre mesi, che sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che chiaramente si parla di personale, ragazzi per lo più, che sono buttati veramente in pasto alla gente per entrare a subire anche le dimostranze, no? Perché non hanno la capacità loro malgrado di risolvere e gestire un problema così grosso e pesante come quella delle zone eccessivamente gravose, come quella delle giacenze che diventano quintali e tonnellate negli uffici. Quindi scusami se ti interrompo, Fabio, un altro dato che si può trarre da questo processo di diciamo privatizzazione di questi anni è, oltre a maggior carico di lavoro per chi è rimasto, anche maggiore flessibilità nei nuovi contratti che vengono fra virgolette aperti, stipulati dall'azienda per soddisfare alla domanda di lavoro, diciamo, no? Sì, sì, sono questi contratti a tempo determinato che l'azienda utilizza a suo piacimento in modo sempre più massiccio. C'è un incremento di questi contratti di lavoro negli anni, e chiaramente qualche cosa che è funzionale a quelli che sono gli scopi finanziari di bilancio dell'azienda, ovviamente lavoratori che costano molto molto di meno, lavoratori che non hanno nulla da pretendere, e quindi chiaramente c'è un ricorso a piene mani proprio a queste forme di lavoro, che sono appunto forme di lavoro a tempo determinato, a tempo, quindi non garantite in nessun modo. Certo, questo sì, è un dato di fatto, qualche cosa che aumenta appunto il tempo e serve appunto solo a tamponare temporaneamente situazioni che diventano ingestibili appunto anche per il più spregiudicato dirigente, no, di rame o quello che sia, insomma. Senti, visto che facevi prima un richiamo, questo proprio al volo, però facevi un richiamo prima molto importante a l'allargamento e l'estensione delle lotte contro le privatizzazioni, che vada al di là delle Poste Italiane e raggiunga anche tutte quelle appunto aziende pubbliche partecipate o municipalizzate. Ecco, da questo punto di vista vi siete posti qualche obiettivo da raggiungere nel breve termine di collegamento fra queste lotte, collegamento sia appunto in forma di contatti, coordinamento, ma anche di mobilitazioni in contemporanea comuni? Allora guarda, rispetto a questa cosa diciamo che è molto in divenire, almeno per il mio riposto, insomma, perché purtroppo la nostra azienda è un'azienda che si è un po', insomma, addormentata nel corso degli anni, e stiamo cercando come Probas di tirare un attimino, no, sulle fila, le sorti di questa cosa. E sicuramente abbiamo in programma di unire delle lotte, già abbiamo per esempio il discorso di Telecom che ci sta precedendo in tutti i passaggi che noi facciamo puntualmente dopo di lei, no? E quindi speriamo di non seguirla fino alla fine, e già quello è un contatto e un collegamento che noi cercheremo di tenere molto molto aperto, perché comunque sia parliamo di due servizi che sono essenziali e fondamentali. Ma c'è anche chiaramente la consapevolezza che Poste Italiane in sé appunto non è solamente un discorso lavoro e postali dipendenti di Poste, è appunto un discorso di servizi e ha anche delle implicazioni che sono molto più ampie rispetto alla sola fornitura di servizi, no? E quindi abbiamo un discorso per esempio della Cassa Depositi e Prestiti che si lega a Poste Italiane, e allora c'è il discorso di quello che può essere l'utilizzo di questo progetto Cassa Depositi e Prestiti e di tutti i soldi che gestisce, che provengono dai buoni postali. Ecco, all'interno di questo forum della nuova finanza pubblica e sociale noi cerchiamo anche dei collegamenti con altre istanze e altre lotte, perché chiaramente dentro c'è di tutto, cioè parliamo del diritto alla scuola e all'istruzione per quello che riguarda gli edifici scolastici, parliamo del discorso della raccolta differenziata, parliamo del discorso delle strade, dell'illuminazione, parliamo del discorso del diritto alla casa. Chiaramente sono tutte istanze, tutte lotte sociali che sono già attive sul territorio, che purtroppo sono spesso molto frammentate, e noi vogliamo cercare anche attraverso questo forum, che è inclusivo di molti soggetti sociali, sono più o meno organizzati, vogliamo cercare di unificare queste lotte, perché ovviamente non parliamo solamente di Poste, stiamo parlando in generale di servizi pubblici e di beni collettivi, e Poste Italiane rappresenta tutte e due queste cose, come lo rappresentano appunto le altre cose che ho detto prima. Quindi sì, nelle nostre intenzioni già ci sono insomma delle iniziative che cerchiamo di fare in modo congiunto. Ovviamente dobbiamo cercare di, diciamo, affinare un attimo il nostro modo, no, di agire, di operare, dobbiamo affinare sicuramente i contatti e i collegamenti, ma nel progetto c'è questo, perché siamo convinti che non è possibile nessuna battaglia, nessuna categoria, nessun soggetto, per quanto organizzato, può pensare di avere la meglio rispetto agli attacchi forti, radicali che vengono portati, no, adesso in questi ultimi tempi a tutto ciò che è vita sociale e benessere collettivo. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, è stato ottimo, perfetto dal punto di vista della conoscenza che noi non avevamo della situazione in Poste Italiane, ma soprattutto anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché hai posto dei punti a nostro modo di vedere fondamentali appunto per una buona riuscita delle lotte. Per questo ti ringraziamo, ci risentiremo in futuro qualora ci fosse necessità di aggiornamenti e news. Io ringrazio a voi, buona giornata a tutti. Buona giornata, ciao. Modelli per la società, hanno l'armatura, il bastone e l'elmetto, la loro convinzione sicurezza ci dà. Sirene blu, bastardi parassiti, ormai possiamo più. Cervello di cartone, sirene blu, cervello da assassini, ormai possiamo più. Per più di un milione per le strade si prepara l'attacco, i nostri cavalieri salveranno città, contro chi è sciopero e si ribella, sono i padroni della città. Sirene blu, bastardi parassiti, non ne possiamo più. Cervello di cartone, sirene blu, cervello da assassini, non ne possiamo più. Per più di un milione pietà. Questa violenza è legale, si sa. Vendono eroina, violentano donne, sono i mafiosi della città. Sirene blu, bastardi parassiti, non ne possiamo più. Cervello di cartone, sirene blu, cervello da assassini, non ne possiamo più. Per più di un milione riprendiamo la trasmissione in diretta, sempre Radio Onda Rossa 87.9, corrispondenza operaie. Allora, il prossimo spazio, la prossima corrispondenza la utilizzeremo per dare voce all'avvertenza dei lavoratori dell'autogrill di Via del Corso, che circa due settimane fa si sono visti recapitare ben 77 lettere, anzi fax di licenziamento, poiché diciamo a detta dell'azienda il punto vendita lì è in grossa perdita, quindi sostanzialmente sono state nonostante appunto sia in una zona molto centrale nel cuore di Roma, piena di turismo, addirittura dicono che le perdite rendono impossibile la continuazione dell'attività. Quindi insomma noi al momento siamo in collegamento con Federica, una lavoratrice del punto vendita di Via del Corso. Ciao Federica, ciao. Senti, allora, diciamo, per cominciare ci puoi fare un quadro abbastanza generico della situazione, così ci racconti un po' che cosa è successo in queste due settimane, cosa vi siete visti ad affrontare. Allora, noi 2 settimane fa abbiamo ricevuto qui nel locale un fax con la lettera di licenziamento per noi, per tutti i 77 dipendenti che lavorano qui al locale di Via del Corso. E questa procedura di licenziamento è partita il 24 marzo e si conclude l'8 giugno. Quindi noi l'8 giugno siamo tutti matematicamente licenziati. Purtroppo un fulmine al ciel sereno, quindi da quel giorno abbiamo deciso di mobilitarci, ci siamo organizzati, infatti siamo qui tutti i giorni in presidio. Sì. Per il momento ci stiamo rendendo visibile la protesta, siamo qui davanti a Palazzo Chigi, alla Camera dei Deputati, stiamo creando un pochino di confusione e grazie ai sindacati stiamo cercando di trattare con l'azienda. Abbiamo già fatto un primo tavolo di trattativa con l'azienda, però le speranze sono minime, sono veramente ridotte all'1% perché i locali dell'autogrill sono tutti in esubero, quindi non c'è neanche possibilità, grande possibilità di essere ricollocati in altri punti di vendita. Esatto. Noi, sì. Io ho letto anche che praticamente nell'ultimo periodo sono stati chiusi molti punti vendita di autogrill. Sì, Parco Lunardo, Romanina, sì. Tor Vergata, Euroma 2, sì. Parco Da Vinci. Questi sono i punti vendita che hanno chiuso più, cioè, recentemente. Addirittura Tor Vergata 2 settimane fa ha chiuso. Sì. I colleghi sono stati licenziati, qualcuno è stato ricollocato a 18 ore settimanale. E niente, i prossimi siamo stati noi e stiamo lottando, ovviamente va anche un po' a scontrarsi col fatto che a quanto mi hai anche detto, il risultato di questo primo tavolo di trattativa, loro, insomma, l'azienda vi ha rassicurato paventando appunto il ricollocamento soprattutto, no? O sbaglio? Loro tenteranno di ricollocarci, certo siamo tantissimi, siamo 77 persone, non credo che ci sia la possibilità per tutti. Si ipotizza magari la possibilità per 20-30 dipendenti. Però a noi comunque non basta perché comunque la situazione è critica, qui abbiamo tanti colleghi che pagano mutuo, hanno dei figli a carico, hanno dei figli con handicap gravi, con 104, cioè, stiamo parlando di persone che hanno bisogno di lavorare e che comunque hanno bisogno dello stipendio, cioè della continuità dello stipendio. Purtroppo la situazione è grave perché adesso siamo noi, comunque è proprio la situazione in Italia che non va, perché questo è il futuro che ci aspetta, stanno chiudendo tutti e noi, non lo so, io nello sconforto, nella disperazione veramente vedo solo nero. Io spero veramente che qualche istituzione, qualche politico, cioè, ci possa aiutare, ci possa dare una mano, i sindacati, qualsiasi cosa. Beh, da qui 77 famiglie che rischiano dall'oggi al domani di non avere più il lavoro e di non essere ricollocati, perché poi comunque anche con l'età, sono persone che hanno 50 anni con 30 anni di contributi, inserirli di nuovo nel mondo del lavoro è proprio difficile. Beh, guarda, comunque sicuramente quello su cui potete puntare e sicuramente vi darà risultati è restare uniti, l'unione dei lavoratori, al di là di puntare su un appoggio esterno di qualche politico, come dicevi tu, perché guarda, soprattutto anche in vista del fatto che sono vari punti vendita chiusi, non so, voi avete magari avuto contatto con altri lavoratori, immagino, no? Sì, noi siamo in contatto con l'Associazione Nazionale dei Dipendenti Autogrill, è un'associazione che comunque racchiude tutti i dipendenti autogrill che hanno comunque subito lo stesso trattamento che stiamo subendo noi, sono stati licenziati, spostati, mandati in mobilità. Io ti dicevo, noi vogliamo affidarci alla politica perché siamo in un punto strategico, non perché la politica, in qualche modo io ho fiducia nella politica come penso anche i miei colleghi. Noi siamo qui davanti al palazzo, cioè alla presidenza del Consiglio, e qui è un passaggio continuo di deputati, onorevoli, sottosegretari. Cioè io non mi fido più della politica, però sono loro che si devono interessare del popolo italiano, dei lavoratori. Cioè siamo noi che gli diamo il voto, siamo noi che gli diamo il posto. E se loro non aiutano noi, come pretendono che poi tra qualche mese lo scendiamo in piazza? Ma non solo noi, ma tanti altri lavoratori, la Fiat, l'Electrolux. Cioè veramente l'Italia sta cadendo proprio in disgrazia. E loro che fanno? Cioè non ci vedono proprio. Cioè se loro vogliono salvaguardare il loro posto, l'integrità dell'Italia, cioè, ci devono dare una mano. Sono veramente tra poco guerriglia urbana. altro che Grecia, cioè io non lo so, guarda, io non sì, lo no, so, infatti, non so che... se sai, per esempio, guarda, il 12 aprile, quindi praticamente tra una settimana ci sarà una grossa manifestazione che partirà sì, da sabato Piazza, c'è una grandissima manifestazione, voi ci sarete? Io sto già dicendo, io parteciperò, a parte che io sono sempre stata una persona attiva, ho sempre partecipato a manifestazioni di, cioè comunque di altre categorie, cioè libertà di stampa, cioè io sono una ragazza comunque che in campo ci sono sempre stata, anche quando andavo al liceo mi sono sempre interessata alle proteste. Io non lo so se i miei colleghi si accoderanno, io credo di partecipare, ma non per... perché comunque voglio manifestare il mio disagio, il disagio di tante persone che stanno perdendo il lavoro, non hanno la casa. Mi sembra giusto, mi sento in dovere di partecipare alla manifestazione di sabato, mi sembra giusto, ma per dare un segnale forte alle istituzioni, ai politici, e far capire che comunque l'italiano si è stufato, è stanco e scende in piazza per manifestare il proprio disagio, la rabbia, la delusione. Quindi io parteciperò, credo sicuramente di organizzare con altri gruppi di colleghi una serie di manifestazioni, mi accoderò alla manifestazione di sabato, sicuro, questo è sicuro. Ok, guarda, io vorrei un attimo giusto così tornare, fare qualche passo indietro e tornare più nel merito della situazione, per esempio. Comunque sia, io sempre da quello che ho letto, tu correggimi se sbaglio e confermami queste cose. Allora, nonostante ci sia stato, ecco, l'azienda dice che c'è stato un calo delle vendite del 21% nel vostro punto vendita, ovviamente questa percentuale come tu ben sai e come un po' tutti quelli che lavorano nei determinati posti, è fisiologico, tutto, il calo sì, è fisiologico, no, oltre a essere fisiologico è comunque basato su dei calcoli, dei budget che l'azienda si impone di anno in anno, di mese in mese. Certo, noi ogni giorno dobbiamo raggiungere un budget, un budget, un guadagno. Per dirti, il sabato, ti faccio un esempio, il budget che il locale deve raggiungere deve essere di 20.000 o superarlo. Esatto. Allora quello sì è un segnale positivo, se tu arrivi a guadagnare 20.000 euro di sabato, sei nel budget, diciamo, l'azienda ha guadagnato. Esatto, ma, ma l'azienda, diciamo, ecco, io questo lo dico, lo sottolineo soltanto per magari far capire un po' meglio come funzionano determinate cose. Questi budget sono fatti in modo che l'azienda non è che guadagni solamente, cioè il profitto dell'azienda è molto molto molto ampio, ok, su questi budget che vengono definiti. Non è che in una giornata dove l'azienda, non lo so, incassa la metà, è andata in perdita. Quindi sostanzialmente, nonostante questo paventato 21% dal 2012 di perdita, e essendo appunto in merito, cioè riferito ai budget imposti dall'azienda, non vuol dire che l'azienda è in perdita su quel punto. No, l'azienda non è in perdita, perché basta andare su internet, accedere, diciamo, alle statistiche, alla borsa, alle quotazioni in borsa. L'azienda, anche in questo trimestre, quello che va da gennaio a marzo, è in forte crescita, un 4% di crescita. E diciamo, il nostro punto vendita sta soffrendo perché il guadagno è sceso, e sicuramente rispetto agli anni precedenti sta guadagnando meno. Però è un'azienda, l'Autogrill è una grandissima società che comunque che in altre zone, profitti, soprattutto all'estero, è in forte espansione, è in forte guadagno. Sì, esatto. Quindi, semplicemente che evidentemente l'azienda ha deciso che non gli bastavano più determinati margini di profitto che fa sulle spalle dei lavoratori. Questo è semplicemente questo, non è che non fa più profitti, continua a fare profitti, soltanto che non si accontenta più del margine. Taglia i rami secchi, taglia i punti vendita che non fanno entrare più tanti soldi come una volta. Come una volta, ma secondo me questa è un'arma a doppio taglio. Tu stai lasciando un posto strategico in Roma Corso, un locale storico, questo è un locale storico, il famoso caffè Aragno, cioè non so cosa ci sia sotto, non lo so, non hanno potuto investire. Vabbè, ristrutturiamo, cerchiamo di rilanciare, facciamo delle promozioni commerciali, nulla. Quindi hanno deciso drasticamente di chiuderlo, cioè di tagliare, basta, non ci guadagna, mandiamo a casa i dipendenti. Tra l'altro, ecco, dipendenti che erano stati anche molto diciamo accondiscendenti, come piace dire a loro, ecco, appunto flessibili, c'erano, cioè, ci sono stati molti ricollocamenti, avete accettato. Guarda, magari anche problematiche di ore e permessi. Eravamo anche disposti a ridurci l'orario di lavoro o in qualche modo a trattare, eravamo propensi, noi saremmo stati contenti se il locale fosse stato rimpicciolito, cioè lavori di rimpicciolimento, meno affitto. Io sarei stata molto favorevole a togliermi anche 4 ore di lavoro alla settimana, io già ne lavoro 24, e comunque noi dipendenti abbiamo fatto anche dei sacrifici perché ci hanno imposto le ferie e i permessi in periodi in cui non si lavorava, e quindi abbiamo preso ferie e permessi proprio per dare la possibilità all'azienda di respirare, cioè di far lavorare meno persone, e niente, non è bastato, non è servito. E purtroppo l'Autogrill è una multinazionale che secondo me non rispetta minimamente a livello etico il lavoratore. Cioè noi siamo dei numeri, noi per l'azienda siamo dei semplici numeri, e quando poi non porteremo più profitto, guadagno all'azienda, giustamente loro danno il ben servito cacciandoci via. Siete stati anche un po', cioè, pesantemente, diciamo, boicottati da quello che ho letto durante alcune delle vostre manifestazioni di protesta, giusto? Addirittura che, cioè, tipo boicottati. Io ho letto che è stato non è stato permesso di utilizzare bagni addirittura durante la protesta. Guarda, io non c'ero, questa storia me l'hanno raccontata i colleghi, e c'è stata un pochino di speculazione su questa cosa, e non me la confermo. Adesso non ci hanno più fatto problemi, io non lo so, non ero presente qui, però dice che delle colleghe sono state fermate perché volevano andare al bagno, è stato detto loro di rimanere fuori perché erano in sciopero. Però io non vorrei tanto sottolineare questo fatto, perché forse i primi giorni di protesta eravamo un po' agitati noi, anche comunque le persone ma giustamente agitati voi quindi, nel senso, non è mai abbastanza l'agitazione, quindi comunque ci sono stati anche atti di nervosismo, abbiamo litigato tra di noi perché non c'era comunque accordo comune per lo sciopero, che facciamo, che non facciamo, quindi presi, diciamo, dagli eventi, i primi giorni sono stati drammatici perché sono creati veramente situazioni insostenibili, i colleghi che litigavano, le persone che sono rimaste dentro sono state agitate come crumire, insomma la situazione è un pochino particolare, però adesso fortunatamente manifestiamo tranquillamente, l'azienda ha detto che comunque lo possiamo fare, certo nel rispetto delle norme della 626, quando noi usciamo per fare lo sciopero dobbiamo spegnere tutti i macchinari, non dobbiamo creare giustamente disagio alla clientela che è dentro, e quindi noi ci atteniamo e manifestiamo pacificamente qui fuori. Infatti siamo qui fuori adesso con i fischi, con i fischietti, i piscioni, le trombe, e cerchiamo giusto di disturbare le persone che entrano, magari di sensibilizzarle, informarle sulla situazione e anche di farci vedere. Noi più di questo adesso non possiamo fare, adesso aspettiamo il secondo tavolo delle trattative, che noi avremo il 17, il 15 e il 17, e sentiamo un po' se l'azienda ha qualche proposta da farci, insomma, se ci darà qualche speranza. Va bene, perfetto. Allora, Federica, ti ringrazio per la tua disponibilità, sei stata gentilissima. Ringrazio la tua radio. Sì. Noi sicuramente comunque ci risentiremo magari dopo il 15, certo. Il 17, dopo questi altri tavoli, così. Guarda, ci pare un aggiornamento. Sono felicissima di darti buone notizie, sarò felicissima di darti buone notizie, se vuoi ci sentiamo e come ci aggiorniamo, no, certo, sulla situazione, va bene, nel frattempo scusate, dato che tu stessa, Federica, hai detto che proverai, comunque verrai al corteo il 12 aprile, corteo, sabato, sì. Rilanciamo questo appuntamento, sperando che anche i tuoi colleghi, lavoratori e lavoratrici, vengano insieme a te. Io lo spero, perché comunque è importante, non solo per la nostra situazione che magari è di nicchia, di margine, l'Autogrill, ma perché ci sono tante altre realtà e non dobbiamo manifestare solo per noi, ci sono tanti italiani, tante persone senza lavoro, senza casa, senza diritti, e mi sembra giusto accodarmi a questa grande manifestazione che si terrà sabato. Quindi io sono di sostegno, l'appoggio, l'ho sempre appoggiato e sono favorevole alle manifestazioni di piazza, che sono l'unica cosa che comunque risaltano all'occhio del mondo, della politica, delle televisioni, dei giornalisti, è l'unico modo che abbiamo, l'unico mezzo che abbiamo per farci sentire. Perfetto, grazie, buona giornata. Niente, e buona lotta a voi, tutti e tutte. Ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Thank you. Allora, eccoci di nuovo su Corrispondenza Operaria, su Radio Onda Rossa. Stiamo provando a fare un collegamento un po' improvvisato con operai dell'Electrolux che sono in arrivo a Roma da Susegana con un pullman per un presidio. Pronto? Davanti. Pronto Moreno, eccoci, siamo in diretta, ci senti? Moreno? Ecco, ci sono un po' di problemi tecnici perché sono in autostrada e quindi probabilmente non si sente bene. Non riusciamo a capire se ci riescono a sentire. Comunque intanto allora loro stanno venendo a Roma per fare un presidio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, perché dopo mesi di silenzio da parte del governo si è riaperto il tavolo di trattativa e... ci sentite adesso, Moreno? Sì. Bene, guarda, stavo dicendo allora agli ascoltatori che voi state scendendo a Roma, se ci vuoi raccontare. Male, se mi fai puoi aspettare un momento? Sì, allora guarda, quando ti richiamiamo, dimmelo. Perché sto uscendo aspetta un momento. Vabbè, intanto io dico a chi ci ascolta cosa state facendo. Allora, dunque, niente, sono qui a Roma perché appunto il governo, dopo mesi di silenzio, anche perché appunto c'è stato la caduta di Letta e l'arrivo di Renzi nel frattempo, ha ripreso il tavolo di trattativa con la famosa vicenda Electrolux che tutti voi conoscete, che noi qui abbiamo seguito da vicino. Bene, pronto Moreno? Ci senti adesso? Senti? Perfetto, sì, noi ti sentiamo bene. Ci senti Moreno? Sì, adesso ti sento. Guarda, allora stavo spiegando che state venendo qui a Roma. Ci puoi dire tu bene perché, quanti siete? Va bene. Niente, siamo un 150-160 lavoratori su Susegana. Dagli altri stabilimenti che sappia io, da Porcia ci sono due pullman, non so, da Solaro e da Forlì. Stiamo andando a Roma perché oggi c'è il primo incontro che aspettavamo da ottobre, novembre, con governo, azienda e sindacati, quindi RSU. Quindi abbiamo pensato di fare queste 8 ore di sciopero, riuscire a portare giù più lavoratori possibili al Ministero, attendendo quello che ne uscirà, e dando un po' di lavoratori a Susegana, dove continua il presidio e dove oggi comunque c'è il blocco totale, nel senso che non abbiamo fatto entrare né impiegati né merci, non esce, non entra niente. Questo a Susegana e negli altri stabilimenti sai di blocchi? Questo a Susegana, negli altri stabilimenti non so, so che a Porcia il presidio dovrebbe continuare, loro oltretutto fanno anche un'ora e un quarto mi sembra di sciopero al giorno. Penso che il presidio lì ci sia e quindi più o meno funzioni come a Susegana, non so invece a Forlì e Solaro come sia con il discorso con i presidi. Ok, no, ricordo un attimo agli spettatori, agli ascoltatori della vicenda, insomma sappiamo tutti del piano industriale che propose Electrolux qualche mese fa, che con la minaccia... Adesso ti sento un po' male. Stavo solo spiegando agli ascoltatori del piano industriale, per cui con la minaccia di chiudere uno dei 4 stabilimenti che hanno in Italia, hanno proposto un taglio dei salari molto cospicuo, e là c'è stata una risposta da parte di tutti i lavoratori, con blocchi e sciopero, esatto. E anche la spinta per un tavolo di trattativa che adesso finalmente quindi pare avere un primo momento di sbocco. Ci puoi dire un attimo come sono proseguiti i blocchi e gli scioperi negli ultimi mesi negli stabilimenti? Nell'ultimo periodo noi in pratica siamo al 65esimo 67esimo giorno di presidio. Abbiamo fatto il primo periodo con un'ora e un quarto di sciopero di lavoratori, dopodiché abbiamo pensato di sospendere per quello che riguarda lo sciopero perché pensavamo che la trattativa fosse lunga e il costo per i lavoratori fosse un po' troppo sostenuto. Per cui abbiamo continuato i presidi con delegati e direttivi e lavoratori che si rendevano disponibili a turno, e abbiamo continuato il presidio con l'uscita di merci controllata da noi, e decidevamo quanta roba ne usciva e quanta non doveva uscire, nel senso che non potevamo fare un blocco totale perché l'azienda si è minacciata più di qualche volta di mandare, di mettere i lavoratori in libertà perché non avevano la merce per poter continuare la produzione. Per cui i presidi in questo momento funzionano così, nel senso che sono gestiti un po' da delegati, direttivi e lavoratori che sono disponibili a essere presenti. Ok, io ricordo che facemmo una corrispondenza dove ci fu segnalata una forte unità comunque tra tutti i lavoratori, sì, e tra le diverse sigle sindacali. Confermi questa? Sì, una cosa strana che in questa avvertenza a Susegana si è verificata questa cosa, una certa unità tra le varie SU, cosa che da anni non succedeva. In questo momento, vista la situazione e vista quello che ci si prospettava davanti, è stata una cosa molto utile che ci ha aiutato parecchio, insomma. Bene, senti, allora adesso quindi voi andrete in presidio, mi hai detto che farete pure un corteo, puoi dirci un po' meglio? Ma noi pensavamo di arrivare appunto in piazza Barberini, credo che la, sì, la fermata della metro. Sì, sì, metro, e da lì con i lavoratori di Porcia e probabilmente anche quelli di Forlì e di Solaro che vengono, fare un corteo, in pratica fare un corteo fino al ministero, fino dove si può arrivare in pratica. Poi saremo lì e verso le 8 dovremo più o meno ritornare verso casa. Senti, cosa vi aspettate dalla trattativa? Ma noi quello che ci aspettiamo da questo primo incontro intanto che dal tavolo della trattativa sparisca completamente il discorso dei tagli dei salari e degli aumenti di ritmi negli stabilimenti. Questa deve essere la prima cosa che devono fare per poter aprire una discussione. Dopodiché vogliamo anche capire quali sono le intenzioni dell'azienda, perché dei piani, sia il primo che il secondo che ci hanno presentato, il tempo era il 2017, che a noi sembra una cosa ridicola, nel senso che è fra due anni e mezzo, il che vuol dire chiaramente che questi non hanno intenzione né di investire né di tenere aperti gli stabilimenti in Italia. Per cui le prime due cose importanti sono queste: togliere il discorso della riduzione dei salari e degli aumenti dei ritmi di lavoro nei stabilimenti. Se queste cose vengono tolte immediatamente dal tavolo, discutiamo dell'altro, sapendo che però noi vogliamo che ci sia un piano industriale serio che dica, che faccia capire che l'azienda ha intenzione di rimanere in Italia e che il piano non può arrivare solo al 2017. Bene, senti, qual è il clima del... cioè i segnali che vi ha dato l'azienda quindi sono piuttosto negativi, mi sembra di capire, invece rispetto alla politica e alle dirigenze sindacali, che segnali vi stanno dando, voglio dire, che cosa vi aspettate che possa uscire fuori effettivamente? I segnali non è che ne abbiamo tanti, perché perfino adesso non abbiamo avuto incontri, niente, guarda, non abbiamo grandi idee o grandi presentimenti su come possa andare. Dalle dichiarazioni che ci sono state in questi vari giorni nei giornali locali, sembra che comunque l'azienda, il discorso del taglio sul costo del lavoro, non ci rinunci. Non ha tolto in maniera definitiva il discorso che ti dicevo prima del taglio dei salari, ogni tanto riaffiora. Per cui è un po' preoccupante la situazione. Ok, allora quindi... E oltretutto noi, che non ti ho detto prima, nella trattativa diciamo che si tratta un discorso che poi riguarda tutti i quattro stabilimenti, che non si pensi che Porcia venga chiuso, si possa chiudere un altro certo, stabilimento, nel senso che noi vogliamo che certo, gli stabilimenti rimangano, sono quattro, rimangano tutti e quattro. Ho capito, va bene, quindi allora vedremo un attimo l'esito, continueremo a seguire. Senti, siccome prima abbiamo avuto un collegamento con una lavoratrice dell'autogrill che ha detto che lei stessa ha rilanciato il corteo che ci sarà sabato 12 aprile, noi invitiamo anche a voi a partecipare, oltre a invitare adesso tutte le compagne e compagni che a Roma possono fare un salto al vostro presidio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per darvi forza e solidarietà. Comunque invitiamo anche voi a partecipare a questo corteo del 12, in cui ci sono varie realtà, dal movimento di lotta per la casa ai migranti, ma anche una cospicua presenza di lavoratori dalla logistica e non solo, appunto per tentare di rispondere a questo attacco che è evidente l'intera classe dirigente italiana sta portando avanti, con la speranza di uscire dalla crisi comprimendo ulteriormente i salari e le condizioni di lavoro, come la vostra vicenda sembra testimoniare esemplarmente. Quindi insomma, là ci sarà una presenza di lavoratori, noi vi invitiamo a partecipare. Se vuoi dirci qualcosa in merito, non so cosa pensi. Ma guarda, io di questo ti ho detto, ne avevo avuto notizia da compagni, da Federico e compagnia, e ne ho parlato con alcuni compagni in fabbrica. Stavamo valutando il discorso di pensare di essere presenti, però non ti posso assicurare niente, nel senso che dovremmo vedere anche come si svolge in questi giorni o come si muove tutta la situazione, dopodiché vedremo, cioè l'intenzione ci sarebbe, adesso vediamo i tempi e che abbiamo a disposizione, certo. Insomma. Comunque no, insomma, ci fa molto piacere, insomma, che almeno una simpatia alla faccia, anche perché crediamo, noi abbiamo seguito da sempre la vostra vicenda, la crediamo veramente paradigmatica, e quindi insomma la solidarietà è assolutamente un'arma da impiegare. Senti, ti ringraziamo molto, seguiremo allora gli sviluppi e vi facciamo la nostra solidarietà. Ciao Moreno, grazie. Ciao, ciao. Ciao, un abbraccio. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie, perfettamente nei tempi. Svegliamo retroscena, quando prima Luca diceva una corrispondenza improvvisata con l'Electrolux, è perché in realtà su questa vicenda avevamo pianificato di dare, diciamo, solo un aggiornamento sulla situazione, mentre avevamo previsto di contattare un lavoratore ex LSU ATA, però il collegamento non abbiamo potuto stabilire. Speriamo, magari vediamo per la settimana prossima, visto che c'è uno sciopero in vista proprio in questi giorni di tutto il personale della scuola, e per cui proveremo appunto la settimana prossima a ricontattarlo. Detto ciò, con questo possiamo salutarci e ci ritroviamo lunedì prossimo, e quest'ultima canzone che mandiamo la dedichiamo a Iñigo Cabacas, ragazzo basco ucciso dalla polizia autonoma basca appunto circa 2 anni fa con lo sparo di una pallottola di gomma alla testa.